Tsunami Pop la mattina, Hip Hop la sera, Hip Hop ogni giorno. La settimana suoniamo Hip Hop la mattina, Hip Hop la sera, Hip Hop ogni giorno. La settimana, boom, chi sei giaga, oh, per menti criminali, yo, Man in Italy, fuoco, a brucia, yo. Brutta fine che ha fatto il tuo amico, eh? Chi? Il vecchio. L'hanno trovato morto da solo in casa. Hanno accertato che è morto di infarto. Ma la cosa strana è che qualcuno ha comunque rovistato tra le sue cose. È un bel casino. Prima la storia della ragazza che scompare e ora il vecchio. Caro Davide, inizia a puzzare di morte sta terra.